9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Buona giornata, care ascoltatrici e cari ascoltatori, da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. Quanto mai azzeccata anche per la giornata di oggi la telefonata che abbiamo scelto per aprire tutte le nostre trasmissioni, almeno in questo periodo, quella di Angelo da Bergamo, nel momento nel quale usciremo, se usciremo a questo punto, dal pantano. Pantano è la parola che abbiamo scelto oggi, l'hashtag che abbiamo scelto oggi su Twitter. Già ci state scrivendo su questo, continuate se volete, oppure scrivete a me se credete, Simone Spezia, oppure chiamateci all'800 24 00 24. Nel momento nel quale usciremo dal pantano, se mai usciremo, magari Angelo lo richiamiamo in onda, sentiamo se è soddisfatto. Ci scrivete, tutti agiscono come se avessero capito tutto e invece non hanno capito nulla. Machiavellismi, contorcimenti attorno all'ombelico, scrive Nino Dellisanti. Se il pantano è il risultato di acqua e terra, qui in Italia il pantano è il risultato di sprechi e mala politica, ci scrivete ancora. E ancora proposte su quello che dovrebbe e potrebbe fare il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Via Bersani, Napolitano incarichi una personalità al di fuori della politica e governo di programma, Movimento 5 Stelle e PD, ci scrive Eugenio De Vene. Queste sono solo alcune delle ipotesi in campo, in queste ore sta circolando di tutto. Saluto innanzitutto i nostri ospiti politici di oggi. Andrea Orlando del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Maurizio Gaspari del PDL. Buongiorno, buongiorno. E Marzio Breda del Corriere della Sera, buongiorno Marzio e benvenuto. Buona giornata. Da te cercheremo di capire un po' che cosa ha in testa il Presidente della Repubblica in queste ore e che cosa può succedere. Però, prima di tutto, già si diceva nell'anteprima, vorrei parlare, prima di parlare con i nostri ospiti politici, magari fargli anche una domanda su questo, parlare di una vicenda che, a mia personalissima opinione, è uno dei sintomi di un paese impazzito. La vicenda che è avvenuta ieri a Ferrara, dove il sindacato di polizia, il COISP, ha manifestato sotto l'ufficio di Patrizia Moretti, la mamma di Federico Aldrovandi, ucciso a manganellate da 4 poliziotti in un'alba di 8 anni fa a Ferrara, appunto. Patrizia Moretti è con noi, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto io vorrei brevemente un racconto da lei dalla sua parte, cioè che cosa è successo, come se ne è accorta, li ha visti sotto, che cosa facevano, urlavano, protestavano, era solo un sit-in, che cosa è successo? Sì, ieri mattina era previsto, annunciato, l'ho visto sui giornali del giorno prima, una manifestazione, un sit-in, una specie di picchetto in una piazza centrale di Ferrara, Piazza Savonarola, che rimane proprio sotto il municipio dove io lavoro. Devo dire che da un mese un furgoncino del COISP si muoveva per Ferrara con manifestazioni di solidarietà nei confronti dei poliziotti che hanno ucciso mio figlio, e questo già era pesante. Comunque ieri era, suppongo, il culmine, visto che nel pomeriggio avevano il loro congresso nazionale. Quindi al mattino si sono radunati qui sotto la piazza e li vedevamo dalle finestre. Non era mia intenzione corrispondere in nessun modo, cioè non avevo nessuna voglia di parlare, insomma speravo che finisse presto e basta. E però il sindaco ha ritenuto di scendere e gli ha manifestato, insomma, l'inopportunità della loro presenza proprio lì, e comunque gli ha detto anche che questa, insomma, si capiva, era una manifesta provocazione nei miei confronti, insomma, viene a manifestare proprio sotto le finestre di chi ha subito la terribilità per mano delle persone con cui solitariti. Insomma, essendo andato giù, lo vedevamo dalla finestra e abbiamo visto che un signore grande e grosso ha cominciato a urlargli contro, sentivamo le urla dall'altra parte della piazza. E che cosa gli urlava? Siete riusciti a sentirlo? Sentivamo delle parti, poi comunque ho visto, ci sono i filmati, li ho visti poi su YouTube. Gli urlava, lo insultava, diceva vai via da qui, non dammi permesso, cambia mestiere, vergognati, eccetera eccetera, con il sindaco che inizialmente ha risposto, ma questo signore grosso lo ha anche spintonato. Insomma, a quel punto non abbiamo guardato il resto, con le mie colleghe abbiamo detto beh, noi scendiamo. Ho preso la fotografia e sono scesa. E ha portato giù, questa foto, che è una foto terribile, perché la foto di suo figlio all'obitorio. Certo. È la foto che hanno usato anche, cioè, diciamo, è stato l'elemento fondamentale uno degli elementi fondamentali del processo, sicuramente l'ha usata il pubblico ministero nella sua arringa finale. E come hanno reagito questi aderenti al COISP, queste persone che erano in sit-in? Hanno girato le spalle, non hanno guardato in faccia a me, né guardato, cioè si sono girati rispetto alla fotografia, e dopo un minuto sono andati via. Non ci sono state scuse di nessun tipo? Non le hanno rivolto nemmeno una parola? No. Nessuna parola. So che può sembrare una domanda banale, insomma, però vorrei capire anche naturalmente come si è sentita, che effetto le ha fatto tutto questo. Malissimo, malissimo, naturalmente. Questo continua a ferirmi, insomma, la fotografia è bruttissima per quello che è, ma soprattutto per quello che rappresenta. In quello che è successo a mio figlio, l'essere costretta a mostrarla ancora quando pensavo che tutto fosse finito è veramente molto molto doloroso. E ci diceva che le manifestazioni in realtà non in questa forma andavano avanti da un po' di tempo, insomma c'era questo furgoncino del COISP che girava per Ferrara da un po' di tempo. Da un mese, tra l'altro io in un paio di occasioni, quando qualcuno mi diceva guarda li abbiamo visti lì in quel tal posto, ho provato a vedere, avrei voluto anche vedere le loro facce che non ho mai visto, ma sparivano, insomma comunque si aggiravano in città per un mese intero, quindi non so quanto... Cioè ogni volta che lei si avvicinava sparivano questi, insomma... Non credo che sparissero perché, non lo so, però comunque non riuscivo mai a trovarli in realtà. E ieri sera, però, ieri mattina è stato il massimo, cioè davvero vedere come l'arroganza e l'aggressività di queste persone nei confronti del sindaco li qualifica. Ecco. Loro sostengono tra l'altro che in realtà volevano protestare sotto il comune, non sospettavano che ci fosse il suo ufficio, però in realtà io credo fosse una cosa abbastanza nota che lei lavora là. Direi di sì, è visibile questo. Ferrara è molto piccola, la leggenda purtroppo di cui siamo al centro delle cronache da 8 anni rende davvero difficile credergli. È soddisfatta della reazione delle istituzioni, di come ha reagito ieri il Senato, di quello che dice in queste ore il ministro Cancellieri e anche gli altri sindacati di polizia? Bisogna dire la verità, insomma, perché insomma su questa la presa di posizione è stata netta. Sì, ho ricevuto veramente, cioè, l'applauso del Senato e soprattutto il minuto di silenzio per Federico mi ha veramente commossa. Ed è stato molto bello. Poi ho ricevuto tantissime manifestazioni di solidarietà e comunque di sdegno per questo comportamento, che io non so veramente se sia sanzionabile disciplinarmente o cosa, cioè, sinceramente mi interessa poco, però trovo che sia assolutamente disumano ed è la conferma di quello che rappresentano alcune persone, cioè, spero sia uno sparuto manipolo di persone che solidarizza con degli assassini, che se anche se indossano la divisa sono delinquenti. Grazie Patrizia Moretti. Non la indossino più. Speriamo che non indossino più la divisa. Grazie, sì. Patrizia Moretti, per il tempo che ci ha concesso, e poi torna al lavoro e per fortuna oggi senza nessuno sotto l'ufficio. Grazie, almeno speriamo, insomma. Grazie, sì. Patrizia Moretti, buona giornata. Grazie a voi altrettanto. Prima di venire alle vicende politiche, 800240024 per intervenire in diretta, Pantano l'hashtag su Twitter, un commento dai nostri due ospiti politici di oggi. Inizierei da Maurizio Gasparri su questa vicenda. Lei come la vede? Poi tra l'altro un uomo da sempre molto vicino alle forze dell'ordine, quindi mi interessa particolarmente. Prego Gasparri. Non voglio alimentare polemiche di fronte a tragedie così grandi, occorre compostezza rispetto dei drammi familiari ed evitare qualsiasi strumentalizzazione, qualsiasi esagitazione. Ripeto, sono drammi che anche adesso abbiamo ritrovato nelle parole che abbiamo ascoltato, che vanno affrontati con rispetto, senza atteggiamenti come quelli che alcuni con scarso senso di responsabilità hanno esibito. Quindi diciamo, mettiamo un freno alle polemiche e affrontiamo le vicende per quello che sono. Lo condanna questo gesto però, immagino. Dar luogo a strumentalizzazioni, esagitazioni, questo guarda, è proprio un problema complessivo del paese in questo momento, attenzione però, c'è un eccesso di estremizzazione, di spettacolarizzazione di qualsiasi cosa e quindi poi c'è uno spirito emulativo che porta ciascuno a pensare di dover fare qualcosa di più, più uno, tu fai questo, io faccio di più e così via, quindi forse la riflessione va estesa a 360 gradi su tutti gli atteggiamenti che tutti stiamo tenendo e che alcuni stanno esasperando, forse è anche vero che c'è un momento di crisi sociale, di grande preoccupazione nel paese, ma questo non giustifica atteggiamenti che non sono da condividere assolutamente. Orlando, Andrea Orlando del Partito Democratico, una sua valutazione su quello che è successo ieri. Un episodio inqualificabile, una manifestazione di disumanità che credo fortunatamente è stata condannata in modo ampio. E ne approfitto anche per rinnovare, per esprimere la solidarietà alla famiglia Aldrovandi, ma anche per, come dire, compiacermi dell'equilibrio, della capacità anche di mantenere in un momento così difficile, nonostante questa provocazione, un tratto di civiltà. L'abbiamo sentito anche questa mattina dalle parole della signora Moretti, come dire, no, come non si sia tenuta a distanza dalle polemiche, dalle provocazioni, abbia saputo mantenere davvero una dignità e una capacità anche di, appunto, di mantenere un tratto di civiltà che è un elemento essenziale in questo momento. Però credo che il contesto, le difficoltà del paese, la crisi, tutto quello che vogliamo, non attenuino la gravità di un atteggiamento e di un episodio come quello di ieri. Veniamo adesso all'altro tema di questa giornata che abbiamo deciso di affrontare, naturalmente questa salita al colle di Bersani. Tra l'altro, Orlando, lei lo sa, quando va? Oggi o domani? Perché ci dicono domani, ci scrivono gli ascoltatori, è venerdì santo, insomma un po' il rischio Golgota è dietro l'angolo, ecco. Ma no, ancora credo che sia una cosa che si scioglierà nei prossimi minuti, nelle prossime ore, o stasera o domani, comunque questo è il margine, non cambia molto, si tratta di fare ancora alcuni passaggi, alcune verifiche, quindi penso che questo sia il range, ecco. Marzio Breda, dunque, del Corriere della Sera, veniamo appunto a questa giornata di oggi, a Napolitano che attende Bersani. Insomma, la linea del Presidente mi sembra che sia stata chiara fin dall'inizio, anzi fin dalla fine delle consultazioni, no? Portami una maggioranza chiara, definita, evidente. Però al momento questa maggioranza non c'è. A me sembra che si andrà a finire verso l'incarico a qualcun altro. Sì, infatti è così, nel senso Bersani ha fatto la sua lunga esplorazione, consultazioni allargate alle forze sociali, non solo poi tra l'altro a sindacati o Confindustria, ma le ha allargate molto, quindi non può certo recriminare di aver avuto poco tempo. Napolitano naturalmente non gli ha dato una scadenza, prenditi il tempo necessario, diciamo. Oggi Bersani ha detto attendo delle risposte, mi pare che già per la verità le ha avute, ha avuto ieri quella dell'interlocutore col quale cercava soprattutto l'Intesa, cioè il Movimento 5 Stelle, ma non gli sono mancate anche le risposte di altro tipo. Insomma, dovrebbe chiudere oggi senza aver verificato l'esistenza di quella maggioranza certa, così era letteralmente la condizione posta a questo preincarico. Quindi se sarà questo l'esito, insomma, a meno di prodigi che non si riescono a immaginare, dovrebbe essere questa, dovrà rinunciare, e quindi a questo punto Napolitano procederà a un'altra, come dire, un altro incarico. Non si può pensare, per due ragioni, sappiamo, Napolitano nel semestre bianco non può sciogliere le Camere, non può neanche tenerci in un limbo indeterminato, e del resto Napolitano ha verificato, sia l'ha verificato Bersani, la stragrande maggioranza delle forze politiche, oltre che appunto del Paese, vuole un governo, questo è il punto. E allora, a questo punto, siccome c'è questa incomunicabilità tra queste tre grandi minoranze di fatto che sono uscite dal voto, Napolitano proverà a fare un governo differente, che non potrà essere il governo tecnico, avere le linee del governo tecnico che nacque un anno e mezzo fa, quello cioè di Monti, ma dovrebbe avere un profilo, diciamo, diverso, istituzionale. Tecnico è una parola che fa venire l'orticaria oggi a pronunciarla dopo l'esperienza Monti, e quindi ecco che tutti tracciano l'identikit del possibile candidato premier, del candidato del presidente a questo punto, che dovrebbe essere una figura diciamo istituzionale, in quanto tale percepita come neutra da tutte le parti politiche, quindi non uno della destra, della sinistra, ecco, e secondariamente che abbia un certo standing diciamo internazionale, che sia una certa reputazione di credibilità, perché qui c'è da prendere immediatamente per mano la questione di come sta andando l'economia. Abbiamo visto che è ripartita l'oscillazione dello spread, siamo sotto osservazione degli istituti di ricerca, delle agenzie di rating internazionali, quindi a questo punto qualcosa bisogna fare, bisogna farlo rapidissimamente. Quindi Napolitano potrebbe anche dare questo incarico senza rifare un altro giro di consultazioni. Ah, ecco, questo sarebbe pleonastico. Esatto, questo mi sembra un punto fondamentale, Marcio, perché insomma, anche di fronte ai mercati, di fronte agli osservatori internazionali, qua è passato un mese dalle elezioni, più di un mese, e ancora non abbiamo un governo. Pensare ad un altro giro di consultazioni sarebbe preoccupante, anche perché, se non sbaglio, entro fine mese, entro il 10 aprile deve essere approvato il DEF, il documento di economia e finanza, e entro la fine di aprile deve invece arrivare il programma di riforma, insomma quello che bisogna presentare all'Europa. E quindi questo è un elemento dirimente. 9 in punto. Ci scrive Nicola De Villa su Twitter: Presidente del Consiglio Mario Draghi, per carità, non ce lo togliete dalla BCE, non fosse mai che la mettono in mano ai tedeschi, per carità, lasciamolo dov'è, sta bene a Francoforte Mario Draghi, che insomma fino adesso ha fatto il suo dovere. Maurizio Gasparri: allora, io immagino la vostra posizione a questo punto rimanga ferma là, se si tratta sul Quirinale si può trattare sul resto, è questa la sostanza, no? Guarda, più che un problema di trattativa, è un problema di rispetto dei ruoli e del peso politico. Noi rappresentiamo un terzo degli italiani, la nostra coalizione. Come ha ricordato anche in maniera puntigliosa in più occasioni, Napolitano ha un divario elettorale rispetto a quello guidato da Bersani dello 0,3%, quindi non è che stiamo parlando di una coalizione che abbia vinto e un'altra che non ha consistenza. Se Bersani avesse vinto, avrebbe la maggioranza sia la Camera che il Senato, il suo tentativo sarebbe coronato da successo. Mi pare che il quadro delineato da Breda, che è, come dire, una persona che vede da vicino le mosse e le iniziative del Quirinale, sia un quadro realistico. Non ci sono numeri per il tentativo di Bersani, l'incarico che gli era stato affidato dal presidente Napolitano era direttamente, esplicitamente collegato alla possibilità che Bersani dimostrasse di avere numeri per poter costituire un governo. La risposta dei 5 Stelle, le risposte, gli insulti, le parolacce, tutto quello che è accaduto, mi pare che dimostrino che non c'è nessuna disponibilità da parte di quel settore. quindi si deve verificare la possibilità di una convergenza per affrontare delle emergenze di natura economica. Per quanto riguarda la vicenda del Quirinale, noi abbiamo detto alla luce del sole che uno schieramento che non ha vinto, quello della sinistra, non può pensare di fare un governo di minoranza, che noi dovremmo non si sa in quali modi aiutare a nascere, indicare comunque tra le personalità elette nelle loro liste i presidenti di Camera e Senato, e poi prendere il Presidente della Repubblica e non so, fare tutto, e se questo corrispondesse a una maggioranza di consensi nel Paese potrebbe anche essere ammissibile. Siccome così non è, equilibrio e condivisione di responsabilità si impongono. Ora vedremo cosa farà Bersani, mi pare che quello che farà Napolitano Brera lo abbia detto già con molta chiarezza. Le fanta ipotesi dei nostri ascoltatori via SMS, su Twitter, ci dice incarico a Graziano Del Rio subito, Alex da Taormina. Gasparri, però, insomma, un paio di nomi ce li faccia. A chi dareste la fiducia? Un Grasso la fiducia gliela dareste? Non... Per fortuna non ho questa responsabilità, quindi non devo fare nomi. Noi riteniamo che in termini politici il Popolo della Libertà sia pronto ad assumersi le proprie responsabilità. Allora, mi scusi, mettiamola così. Grasso potrebbe essere un nome abbastanza super partes da essere soddisfacente. Io sono il vicepresidente del Senato, sono anche vice di Grasso in questa fase. Posso trovare, però le voglio dire, è una fase che richiede anche delle esperienze. Il presidente Grasso ha notevole esperienza in alcuni settori della vita istituzionale, ma non è che adesso noi dobbiamo gestire una procura, qui c'è una situazione soprattutto sul fronte dell'economia molto delicata e credo che servano attitudini anche in quel campo. Sentiamo qualche ascoltatore, a questo punto iniziamo da Antonio della provincia di Rimini, buongiorno. Buongiorno. Prego. Niente, io volevo dire sia a Gasparri come a Orlando di cercare di mettersi d'accordo con Bersani e loro stessi dicessero quello che vogliono esplicitamente, ma senza arroganza, senza offendere le persone. Cioè quello che io sento sempre per televisione e alla radio, sempre offese da parte di tutti quanti, sia uno che l'altro, quindi sono tutti quanti nella stessa maniera. Quindi io chiedo semplicemente di adoperare un sistema di linguaggio molto diverso e di essere più amabili, più coordinati nell'accettare sia uno che le altre cose. Quindi chiedo di mettersi d'accordo e di andare avanti nel modo più semplice possibile, che le votazioni, noi siamo in Italia, non ce le possiamo permettere, costano troppo. E quindi si faccia un governo. Allora, Andrea Orlando, siate più amabili, come raccomanda Antonio dalla provincia di Rimini, però ci dica come la vedete voi, o Bersani o voto. Mi sembra di capire che un pezzo del partito la pensa così, un pezzo del partito no. Io non so se riesco ad essere amabile, cerco sempre di mantenere però dei toni che siano civili, qui però non credo che sia un problema, diciamo, di buone maniere. Bersani ha avuto un incarico, ha verificato che il Movimento 5 Stelle si intende sottrarsi da qualunque tipo, diciamo, di corresponsabilizzazione, ha verificato che il PDL ritiene che la precondizione a far nascere un governo è una garanzia sul Presidente della Repubblica, carica che esula a mio avviso da questo tipo di ragionamento. E che comunque imporrebbe uno scambio che troverei, diciamo, abbastanza osceno in questo momento, e questo fa trarre delle conclusioni. Naturalmente la palla, come dice la Costituzione, torna al Capo dello Stato, ma mi pare che se Bersani non è riuscito a trovare le condizioni per far nascere un governo, sarà molto difficile che cambiando il nome, diciamo, queste probabilità e possibilità aumentino, a meno che non cambino, diciamo così, questi presupposti. Io credo che le elezioni siano un'iattura, ma un'iattura più grande sarebbe rimanere in una situazione di palude dalla quale il Paese rischia di rimanere soffocato. Ecco, nessuno auspica le elezioni, il Capo dello Stato deve avere l'ultima parola, ma mi pare che le probabilità aumentino consistentemente alla luce, diciamo così, della verifica di posizioni politiche, che io non voglio, appunto, per cercare di essere amabile, non voglio demonizzare, ma che sono ora di fronte agli italiani. Sentiamo ancora qualche ascoltatore. Luigi della provincia di Ancona, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Sì, perfettamente, prego. Ecco, prego. No, io mi riferivo all'onorevole Gasparri, che stimo molto, che però mi ha un pochino deluso quando c'è stato da prendere le distanze da questo episodio che è successo ieri. Mi sarebbe piaciuto che, è vero che non si può generalizzare, come dice lui, che in questo momento tutto viene così messo nel calderone, però l'episodio di ieri è stato molto molto grave. Io ho avuto la fortuna durante il militare di fare poliziotto, quindi so cosa significa, ho avuto l'onore di vestire questa divisa, e la polizia secondo me deve avere la forza di tagliare le mere marce che infangano questa istituzione. In questo caso in particolare si sa che può capitare qualche esagitato così, ma insomma non si può, un gruppo di poliziotti che prende a manganellata una persona fino ad ucciderlo. La polizia deve avere la forza di fare pulizia proprio, scusate il gioco di parole, all'interno di se stessi. Grazie Luigi, il concetto che ha espresso mi sembra netto. Gasparri, Luigi dice, vuole una presa di distanza più netta da quello che è successo ieri rispetto a quello che ci ha detto prima. Ma guardi, io ho già detto quello che ho detto e confermo quello che ho detto, insomma. Certamente ho detto che bisogna condannare ogni estremizzazione, ogni atteggiamento inaccettabile, e che questi atteggiamenti sono figli di un clima generalizzato che vede tante persone protagoniste di esagerazioni. Perfino uno come Battiato, che dopo non aver fatto nulla come assessore in Sicilia per alcuni mesi, viene cacciato per insulti e polemiche. Quindi c'è un clima di molti. Quindi, non mi sentirei, non mi sentirei paragonare le parole di Battiato alla vicenda di ieri, insomma. No, l'ho detto, c'è un clima di estremizzazione, di esagerazioni. Sì. Le ripeto, ne posso fare decine di esempi. Quindi ho preso le distanze da questi episodi che francamente non mi riguardano, quindi più che condannarli, in un contesto in cui molti stanno facendo cose sbagliate. Questo ho detto e questo ribadisco. Mi pare una condanna abbastanza chiara, dopodiché ognuno dice quello che pensa. Leonardo dalla provincia di Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Prego, la sentiamo. Ascolti, prego. Mi sembra che noi cittadini abbiamo già avuto modo di poter vedere e di poter valutare le forze politiche, anche quelle nuove come il Movimento 5 Stelle. E mi sembra che ci sia un'ipotesi che nessuno fino adesso ha tirato fuori. E questa ipotesi è: si elegge un nuovo capo dello Stato e il PD ha i numeri per poter eleggere il capo dello Stato, questo capo dello Stato scioglie solo il Senato. E a questo punto vedremo se gli elettori italiani ridaranno fiducia a un movimento come il 5 Stelle, che è così intransigente e antidemocratico come ha dimostrato in questi giorni. Leonardo, però per far questo credo che Napolitano si debba dimettere prima, cosa che Marzio Breda mi sembra che non abbia alcuna intenzione di fare. Pronto? Sì. Pronto? Sì, ci sei. No. Sì, eccomi qua, scusa, ecco. Non lo sentivo più. No, appunto, Napolitano non si dimetterà in anticipo, lo ha detto lui stesso varie volte, resterò al mio posto fino alla fine. Insomma, è chiaro che dovrebbe, cioè, dimettersi in anticipo, perché appunto lui non può sciogliere le Camere, e per fare in modo che sia il suo successore a gestire la nuova fase politica, no? E, insomma, io credo invece che lui, proprio perché anche troppe emergenze premono, intenda a cercare di avviare questa nuova fase politica. E quindi, in più, la cosa che suggeriva l'ascoltatore mi pare che non abbia precedenti, insomma non è uno scherzo, sì, è fattibile, in linea teorica ci si può almanaccare sopra, ma insomma mi sembra più percorribile l'altra strada, insomma la strada cioè di un governo del Presidente, questo credo che sia nell'ordine delle cose. Secondo te ci sono dei nomi che ha in mente Napolitano? Non, insomma, immagino di sì, per carità, però... Io credo che Napolitano abbia già assolutamente il secca la personalità da investire di un incarico del genere, anche perché non è che vive sulla luna, cioè poi ha contatti e quindi ha seguito passo passo il tentativo in salita di Bersani, quindi io credo che abbia in testa un nome sul quale nessuno possa recriminare appartenenze, cioè di questo campo politico o dell'altro campo politico, una figura di un certo così profilo istituzionale, di caratura diciamo istituzionale, e che abbia anche un po' di standing all'estero, insomma nelle cancellerie europee, soprattutto che possa già di per sé, come dire, tranquillizzare i mercati, le agenzie di rating, se siamo sotto osservazione e già abbiamo molti segni di sfiducia e nervosismo. Dico per dire, se è vero che la situazione attuale un po' può ricordare il 1993 quando fu incaricato Ciampi, una situazione di crisi economica nella quale nel 1993 le banche non acquistavano più i titoli di Stato, i bond, insomma, e fu chiamato Ciampi che era governatore di Banca Italia, forse un nome assimilabile può essere quello di Saccomanni, ecco. Per dire, poi consentimi una piccolissima cosa, quando l'ascoltatore recriminava poco fa sull'atteggiamento del Movimento 5 Stelle, sì, ieri era penoso assistere al dialogo, alla consultazione di Bersani con i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, perché si può anche naturalmente dire di no a una proposta politica fatta in sede di consultazione, ma non è giusto essere offensivi. Ieri la Lombardi del 5 Stelle, quando ha preso la parola dopo che Bersani aveva esposto il progetto del suo governo, gli ha detto: mi sembra di sentirla a Ballarò, insomma francamente è insultante, per cui sarebbe stato da chiuderla lì, va bene, non volete, fine. Ma qui ecco il punto, la rivendicazione che fa questo movimento di rappresentare la società civile, certamente rappresenta un grande pezzo di società civile, ma non dimentichiamoci che la cosiddetta società civile a volte può essere molto incivile, e lo dimostrano certe sortite anche poi ieri pomeriggio di Grillo. Insomma, la politica deve essere l'arte del buon compromesso, perché questo è, e quindi voglio dire, ma non deve essere lecito a nessuno sgangherarsi, secondo me, insomma, in questo tipo di atteggiamenti insultanti. Insomma, io avrei immediatamente, fossi stato in Bersani, chiuso lì e buongiorno signori e fine, perché insomma era veramente uno spettacolo penoso, non tanto non solo per Bersani, ma proprio per la democrazia italiana, insomma, così dove andiamo a finire, questo dico. Abbiamo una pausa per la viabilità e poi voglio anche Andrea Orlando su questo, voglio sentire Andrea Orlando su questo, perché devo dire che questa è una cosa che hanno pensato in molti guardando questo streaming, questa diretta della consultazione tra Bersani e il Movimento 5 Stelle. Sono in molti che hanno pensato: Bersani a questo punto dovrebbe alzarsi e andarsene, tanto con il Movimento 5 Stelle non ce n'è, quindi viabilità. 9 in punto. Andrea Orlando, non sarebbe stato più elegante a questo punto per Bersani quando la Lombardi ha detto, insomma, siamo qua, sembra Ballarò, alzarsi e andarsene? Intanto, insomma, l'abbiamo capito che col Movimento 5 Stelle non ce n'è un governo Bersani, il governo Bersani i voti non glieli danno. Guardi, io penso questo, che già la riflessione va un po' fatta in generale su questa retorica della trasparenza, cioè il fatto che degli incontri che tradizionalmente sono riservati vadano direttamente in rete, è un elemento che non aumenta, diciamo, e non migliora la capacità di interlocuzione, perché chi parla non parla, l'abbiamo visto ieri. In questo senso ha ragione la Lombardi, sembrava Ballarò perché lei parlava al suo elettorato, non a Bersani, o almeno a quelli che ritiene, diciamo, essere gli intransigenti del suo elettorato. E in questo senso credo, diciamo, che una riflessione generale su come, diciamo, alle volte quella che viene proposta come trasparenza poi in verità produce una recita, sia un dato su cui riflettere. Dopodiché io penso che Bersani, avendo un incarico importante, grave, diciamo, avesse il dovere di un supplemento di pazienza e di disponibilità per far emergere anche fino in fondo di fronte agli italiani, in quel contesto che si era determinato, di chi sono le responsabilità. Credo che, diciamo, non si trattasse semplicemente di esprimere delle valutazioni sulla base di ciò che si stava dicendo, ma anche di dare il segno di uno sforzo che fino in fondo si voleva fare. E, come dire, penso che in questa operazione sia emerso un dato, che quella minoranza, che è una minoranza significativa del Movimento 5 Stelle, che, diciamo, è stata anche rafforzata da una domanda di cambiamento che sicuramente ha incrociato, non ha subito e non può, diciamo, lamentarsi, non può fare la vittima, perché un veto, una preclusione, cioè c'è stata la possibilità di mettersi in gioco. Nessuno, nonostante i toni utilizzati, ha cercato di ghettizzare questa forza politica. Questa forza politica autonomamente e senza scuse ha deciso di sottrarsi al gioco, di deresponsabilizzarsi, di chiamarsi fuori dalla in un momento così importante della vita del paese, in un momento così drammatico, di preferire di attendere, diciamo, un crollo e poi le macerie, piuttosto che assumersi una responsabilità, così come molti dei propri elettori probabilmente chiedono e hanno chiesto anche con il voto stesso. Già che ho la parola, vorrei dire una cosa soltanto. Io sono d'accordo con Gasparri, non accentuiamo i toni sulle vicende, però dare la colpa al clima dei singoli episodi, mi riferisco alla vicenda Aldrovandi, è un modo per far degenerare ulteriormente il clima. Credo che le forze politiche e gli esponenti istituzionali abbiano il dovere di stigmatizzare ogni episodio per il carattere che ogni episodio ha, e quello di ieri è davvero un episodio gravissimo. Quindi cercare corrispettivi, paragoni, è un modo, come sempre, di relativizzare, che trovo sbagliato e rischia di diventare poi involontariamente o volontariamente un giustificazionismo dei singoli comportamenti. Proprio perché c'è quel clima, credo che ci debba essere un'intransigenza da parte delle istituzioni di ogni forma di strappo, e quello di ieri io credo sia uno tra i più gravi che in qualche modo abbiamo registrato nel corso di queste settimane. Gaspare, abbiamo ancora due minuti, faccio chiudere lei a questo punto, visto che Orlando ha di nuovo chiamato in causa. Dicendo, guardi, è stato un po' giustificazionista. Gli episodi vanno condannati, quello è un episodio gravissimo e va condannato. Dopodiché ho semplicemente detto e ribadisco che in Italia abbiamo assistito in molte occasioni a episodi ancora più gravi, a episodi di violenza che sono stati sottovalutati e non hanno avuto la stessa eco negativa che giustamente questo episodio sta avendo. Quindi invoco la par condicio nella condanna di tanti episodi. Quando succederanno, mi auguro mai, cose ancora più gravi, perché, ripeto, abbiamo avuto manifestazioni violente, atteggiamenti estremistici, linguaggi inaccettabili da parte di tanti, mi auguro che ci sia lo stesso sdegno da parte di tutti. Tutto qui, quindi non vuol dire che questa cosa va sottovalutata, e che non ne vanno sottovalutate altre, né un clima di carattere generale, di insulti, di aggressione. Se vuole possiamo fare un bel dibattito su, per esempio, come sulla rete vengono affrontati tanti argomenti, anche cogliendo nell'anonimato la possibilità di determinare insulti, avvelenare il clima. Detto questo, il problema del paese in questo momento è quello di capire se Bersani prende atto di quello che è chiaro a tutti, credo anche a lui, e se il Partito Democratico, che certamente non vivrà in maniera facile e serena questa fase, si rende conto che la priorità è dare un governo al paese, non risolvere le questioni loro interne, che pure sono tutte sotto traccia, perché finora sono stati tutti compatti e coesi intorno a Bersani per un atteggiamento doveroso nei confronti del segretario, di quello che aveva vinto le primarie. Però c'è una grande fibrillazione anche rispetto all'ostinazione con cui Bersani ha seguito una strada che era impraticabile, era un vicolo cieco ed era chiaro. Ora vediamo cosa deciderà Il capo dello Stato all'inizio della trasmissione, e lo ha ripetuto in altri interventi, Marzio Breda, ha detto delle cose che a me sembrano prevedibili e logiche. Su questa strada il PDL è pronto a confrontarsi sui temi del fisco, del lavoro, dell'occupazione, della politica per le famiglie, che sono le autentiche priorità. Gaspari, la devo interrompere perché sennò mi tagliano proprio. Grazie Maurizio Gaspari, Andrea Orlando, Marzio Breda, grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, grazie a Filippo Oreggi, Franco Piantanida, Alessandro Marco Tulli, le ragazze del Centralino. Noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Ricordati! Mancano 94 giorni all'aumento dell'IVA. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, noi non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Radio 24. La passione si sente. 9 in punto.